Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci comodi tuoi. Buongiorno a voi e benvenuti, accomodatevi. Come si è accomodato vicino a me Alberto Pellai. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Devo dire che in questa casa non è un albergo, si sta bene. Molti dei nostri ascoltatori magari sono proprio in albergo e quindi non possono dire la frase quindi clou della nostra trasmissione, i figli, ma ciò nonostante avremo tanti suggerimenti, sfide educative, giusto? Esatto. Questa cosa da Alberto non Pellai. Vanno in vacanza le sfide educative. Non ci lasciano mai e noi iniziamo subito a capire di che cosa ci occuperemo oggi sentendo il nostro sommario. Riappassionarsi alla lettura con un libro per l'estate. Musica, arte e adolescenti. È estate, rallentiamoci la vita. Alberto, partiamo dal primo tema. Molti ragazzi non leggono, sono assolutamente disinteressati alla lettura. Questo è anche il problema di Walter. La sua mamma, un po' preoccupata, anche con qualche idea, ci ha scritto e chiede una mano. Sentiamo. Mai un libro in mano. Anche quest'estate passerà e il nostro figlio Walter avrà fatto tutto, ma proprio tutto, tranne leggere qualche libro. Eccezion fatta per i due titoli che gli ha assegnato la sua professoressa di italiano. Durante l'anno i molti compiti e lezioni lo tengono necessariamente lontano dai libri di narrativa, ma almeno in estate sarebbe bello per noi vederlo coltivare questa passione. Invece lui non ce l'ha nel suo DNA. Dobbiamo lasciar perdere. Ci sono consigli per trasformare in divoratore di libri un sedicenne che al massimo si appassiona alla lettura della Gazzetta dello Sport? Avete un titolo capace di accendere la passione della lettura anche in uno come lui? Mi piacerebbe proporgli una sfida. Un premio se leggerà 3 libri di piacere, di puro piacere. Ma non voglio fare errori. Qualche consiglio? Bene Alberto, una sfida, una serie di domande. Non possiamo, direi, sprecare quella che sembra una possibilità, una tantum. La nostra mamma sembra dirci che quest'estate suo figlio comincia ad amare la lettura oppure mai più. Mi sembra un po' troppo categorico, no? Che dici? Sembra proprio testa o croce, insomma. Allora, per non sbagliare, noi abbiamo tagliato la testa al toro e abbiamo invitato una grande esperta che torna a trovarci, Alice Bigli, titolare della libreria responsabile del festival annuale Un Mare di Libri, un festival tutto dedicato agli adolescenti. Alice, benvenuta, bentornata anzi. Ciao, grazie dell'invito. Senti Alice, l'amore per la lettura può arrivare all'improvviso, io non sarei così catastrofica, no? Ci sono delle persone che poi si appassionano alla lettura anche in tarda età e lì scoprono un mondo. Certo che aiutare i nostri figli a fare questo passo sicuramente è una bella sfida, è qualcosa che ci nasce da dentro come genitori, giusto? Sì, assolutamente sì, infatti la prima cosa che avrei voluto dire a questa mamma era proprio questa, insomma, di non darsi necessariamente un'estate perché diventa molto limitante, è una cosa su cui non smettere, insomma, non deve smettere di tentare di far nascere questo amore, questa passione, ma potrebbe succedere nel momento più impensato, più improbabile, più facilmente succede legato a qualche evento particolare della nostra vita, per cui darsi proprio il tempo di dire quest'estate o mai più diventa un po' limitante. Io mi ricordo che mia nonna diceva i libri devono stare nella casa un po' come dei cioccolatini, no? Insomma, se uno le distribuisce qua e là, qualche volta prima o poi verrà la voglia di assaggiarli. Ecco, io penso che un ragazzo sia esposto al piacere della lettura quanto più libri vede intorno a casa, quanto più riceve il messaggio dei suoi genitori, no? Ad appassionarsi alla lettura, che la lettura sia una cosa piacevole, Alberto. In una casa dove circolano libri e stazionano libri, prima o poi un libro in mano si prende. Io sono molto serena, almeno a noi è capitato così. Come dire, una ciliegia tira l'altra e siccome la libreria di Alice si chiama Viale dei Ciliegi, proviamo a farci raccontare da Alice. Quando un adolescente entra in libreria, trascinato magari da un amico, da un'amica, oppure da un genitore, succede qualcosa, le cose sono diverse, molto Alberto, diverse, ma succede qualcosa lì dentro la libreria che improvvisamente gli fa accendere una lampadina, improvvisamente dà un luccichio negli occhi e tu vedi che si appassionano ai libri che ci sono e magari cominciano a fare domande. A volte sì, la cosa che succede principalmente è che si accende una lampadina e un luccichio in noi, che ci accorgiamo dell'occasione, ecco, questa è la prima cosa. Cioè, secondo me in questi momenti un libraio che si occupa di ragazzi si deve avere perfetta coscienza dell'occasione che ha in quel momento, che deve giocarsi benissimo, perché insomma con i ragazzi si fa presto invece a far sbattere una porta, farla chiudere, è una porta che non viene più riaperta, per cui se tu te la giochi male è difficile che quel ragazzino torni. Certo. E quindi sicuramente... Senti Alice, ma cos'è che ti fa capire che quello è un ragazzino da seguire, su cui investire, a cui proporre qualcosa? Allora, dal mio punto di vista, per come insomma lavoro io con i ragazzi, qualsiasi ragazzino è un ragazzino su cui investire. Poi distinguiamo, nel senso che ci sono ragazzi che arrivano lì già forti lettori e ragazzi che arrivano lì che invece sono inappetenti. Magari, sì, ecco, spesso in questi casi l'occasione è creata, non so, dalla richiesta di un libro fatto dalla scuola, dalla bibliografia per l'estate. In questo periodo in particolare, penso, quindi le settimane più recenti, spesso si ha un primo approccio con un lettore preadolescente o adolescente attraverso la lista delle bibliografie per l'estate. Sì. Questo per esempio è una cosa preziosissima, a cui io tengo tantissimo e lavoro tantissimo anche con gli insegnanti. E spesso in collaborazione con gli insegnanti facciamo noi queste liste di bibliografie per l'estate, chiaramente ascoltando un po' di richieste degli insegnanti, ma cercando di proporre anche a loro delle cose nuove, in modo che sia un'occasione anche per loro per ampliare insomma il loro panorama di titoli e per cercare di costruire una bibliografia per l'estate stata accattivante, perché spesso durante l'anno scolastico bisogna lavorare tutti sullo stesso testo di narrativa e questo è dovuto a esigenze didattiche anche comprensibile, mentre l'occasione delle letture per l'estate permette finalmente di personalizzare. Personalizzare è una parola chiave invece quando si parla di lettura di giovani lettori e gli insegnanti devono imparare a non perdere questa occasione, quindi io propongo sempre loro di fare delle liste molto ampie da cui i ragazzi possano scegliere e che comprendano generi letterari molto diversi, difficoltà di lettura molto diverse. Ecco, quando abbiamo un primo approccio con un ragazzino non lettore che ha davanti questa lista, che in qualche modo ha l'obbligo di leggere dei libri perché l'insegnante magari gli ha detto due, tre di questa lista e la lista è grande, quello è un ottimo momento perché noi lo possiamo guidare nella sua scelta facendogli vedere che siamo dalla sua parte, cioè che il nostro interesse è trovare il libro più adatto per lui, non il libro più importante, più impegnativo, più difficile, più bello secondo noi, secondo la nostra esperienza di lettura, che è un errore che gli adulti fanno spesso, no? È piaciuto a me da piccolo, quindi deve piacere anche a te. Non è vero, cioè può essere, ma non è detto. Senti Alice, proprio l'altra volta ero in libreria e vedevo questo ragazzino con la lista e chiedeva, ma quale mi aiuti a scegliere quello con meno pagine, quelli più piccoli, chiedeva, perché questo era un po' il suo criterio di scelta, il librone. È una cosa molto comune, ecco, la prima cosa in questo caso è non deriderli, no? Perché se noi cominciamo subito a far loro la predica, a deriderli perché chiedono il libro più breve, ci mettiamo subito in una posizione negativa da cui poi non riusciamo più a ottenere nulla. Invece per me quello è un campanello, un segnale, mi dice subito a che tipo di lettore sono davanti a un lettore inappetente, a un ragazzino che non ha ancora l'amore per la lettura, che è spaventato dall'idea di quello che deve leggere per obbligo e quindi al contrario cerco di mettermi dalla sua parte, cerco di trovare il libro che appunto sia più adatto a lui, tenendo anche conto che è un lettore principiante dal punto di vista appunto proprio, ecco, della passione per la lettura. Quindi sfiziosità contro l'inappetenza dei ragazzi, sfiziosità, piccoli Alice, libri per attivare la loro voglia di leggere. Aiuta la nostra mamma, prova a dare una playlist personalizzata sulle esigenze di Walter, 3-4 libri che in questo momento secondo te servono a accendere la sua voglia di lettura. Ma non lo so, io avevo pensato dei libri anche molto diversi, adesso Walter è anche abbastanza grande, no? Per cui insomma non sono più neanche per forza libri per i ragazzini più giovani. Per esempio a me era venuto in mente anche un romanzo per adulti che io utilizzo tantissimo con i ragazzi dei primi anni di scuole superiori, che è San Isidro Football di Cacucci, perché è un romanzo divertentissimo che parla di calcio, è un romanzo umoristico ed è un romanzo di 100 pagine. E sembra una sciocchezza, ma è subito un po' mettersi dalla loro parte, no? Diventare complici, dire benissimo, non ho nessuna intenzione di darti da leggere un mattone di 1000 pagine che so già che ti spaventi in partenza, per cui giochiamocela così, proviamo, se questo in queste poche pagine ti farà ridere abbiamo aperto una breccia e ti ho dato comunque un grande autore, non ti ho dato sicuramente insomma della letteratura di serie B e questa potrebbe essere una cosa. Poi naturalmente agli adolescenti io tendo a proporre molto educazione sentimentale, quindi romanzi che parlano di sentimenti, di ragazzi della loro età, e da questo punto di vista io credo che la scelta vincente sia proporre dei romanzi forti, proporre dei romanzi con delle emozioni forti e che a volte insomma mettono anche un po' in difficoltà noi adulti. Dacci un titolo, Alice, che così prima di salutarci. Io penso, non so, un libro come Oh Boy di Mario Odmurail o Mio fratello Semple, sempre della stessa autrice, o anche un romanzo come Cercando Alaska di John Green, o anche Teorema Catherine dello stesso autore, che sono autori per giovani adulti che scrivono storie forti, appunto, che non sono storie leziose, storie facili come piacerebbe a volte a noi adulti proporre, storie con dei lieti fine scontati. Insomma, Alice, questi sono libri che fanno venire appetito, appetito nei confronti della lettura. Salutiamo Alice Bigli, Alberto. Certo, grazie dell'aiuto, ti chiameremo ancora il prossimo anno. Va bene. Grazie Alice, buona lettura anche a te. Ciao, ciao. Questa casa non è un albergo. Eccoci, siamo tornati insieme, ma noi rimaniamo, Alberto, nel territorio dell'arte e dell'espressività. Che dici? Sono d'accordo. Con Stefano Zuffi e Angelo Braduardi, che hanno partecipato ad una nostra trasmissione andata in onda lo scorso mese di aprile. Ce la riascoltiamo e poi torniamo insieme. Tutta la mia famiglia ama Parigi. Negli ultimi anni ci siamo tornati 3 volte e per ben 2 volte abbiamo fatto sosta a Disneyland per far felice Paolo, che ora ha 14 anni. Quest'anno abbiamo evitato la giornata al Parco Divertimenti, convinti che si sarebbe molto più interessato all'incanto dell'arte proposta dal Museo del Louvre e dal Museo d'Orsay. Tra l'altro quest'anno ha cominciato a studiare storia dell'arte e pensavamo che gli sarebbe piaciuto fare un bel salto dalla teoria di un libro di testo alla pratica della visione di alcune opere tra le più belle che esistano al mondo. E invece, io e mio marito ci siamo aggirati per questi 2 splendidi musei, trascinandoci dietro, nel senso letterale del termine, un annoiatissimo 14enne disinteressato a tutto. Pensavamo di fare un viaggio a Londra quest'estate, ma siamo rimasti così delusi dalla recente trasferta a Parigi che Londra pensiamo di fargliela visitare con internet, nel caso in cui mostri qualche interesse. Ma davvero dobbiamo rinunciare d'ora in avanti a pensare di far amare a nostro figlio adolescente un buon museo d'arte moderna? C'è un modo per portarcelo dietro nei prossimi viaggi senza averlo al seguito alla stregua di un sacco di patate? Alberto, una domanda da $1 milione. A te, Alberto, è mai capitato di trovarti in una situazione del genere? È vero che i tuoi figli sono piccoli, quindi... insomma, sono più facili da trasportare, almeno sono dei sacchini di patate. E così è stato, però anche quando siamo entrati nei musei, proprio perché loro erano piccoli, abbiamo cercato di fargli fare delle esperienze limitate nel tempo, invece di vedere un sacco di quadri, magari sceglierne solo 10 o 12, intorno ai quali magari ci inventavamo una storia o cercavamo di capire qual era la storia dietro al quadro. Ma noi abbiamo un ospite, un esperto che ci aiuterà ad accompagnare i nostri figli in un museo senza farli annoiare, ma naturalmente regalandogli un po' il piacere di gustare un'opera d'arte, il dottor Stefano Zuffi, storico dell'arte, curatore di numerose collane. I suoi libri sono stati tradotti in 15 lingue, raggiungendo tirature di oltre 1 milione di copie, e ha pubblicato tra l'altro per Feltrinelli Il mondo dipinto, un libro dove 22 capolavori d'arte si raccontano ai bambini. Dottor Zuffi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Intanto mi prenoto subito per una visita accompagnata. Porto anche Alberto. Anche bene, volentieri. Senta, ma come si prepara una visita al museo? Parliamo di ragazzini delle elementari e poi andiamo nell'età più difficile, l'adolescenza. Ma iniziamo dai piccoli, così Alberto prende appunti. con i ragazzini delle elementari o addirittura prima delle elementari. Prima si comincia meglio è, fa benissimo Alberto a portare i bambini anche molto piccoli al museo. Con i ragazzini delle elementari bisogna lasciare parlare loro, bisogna lasciare che siano loro a individuare, a scegliere i quadri che quadri, sculture, oggetti che preferiscono. Avrete tutti la sorpresa di notare che i bambini individuano immediatamente i capolavori. I capolavori sono quelle opere che sanno parlare immediatamente, subito, senza alternative ai bambini e anche ai bambini più piccoli. Bisogna sempre ricordarsi che fino alle elementari non ha senso parlare di antichità. È difficile che dei bambini appunto sotto i 10 anni abbiano l'idea di qualche cosa che è più antico o è più vecchio del nonno. Per loro parlare di 100, 200 o 1000 anni è la stessa cosa, e c'è una fortuna straordinaria che non hanno nessuna soggezione. Parlare di Raffaello per loro può voler dire parlare di una tartaruga ninja, ecco. Sì. Mentre in tutti noi scatta subito, ci mettiamo subito sull'attenti, no? Abbiamo questo senso, ah caspita Raffaello, beh allora bisogna guardarlo con un occhio di particolare venerazione. Per i bambini non è così, e anzi bisogna proprio lasciare scorrere molto molto liberamente la loro intuizione e il loro grado di immedesimazione. Pensi, dottor Zuffi, lo raccontava ad Alberto, quando c'è stata la mostra di Magritte a Milano, io sono andata a visitarla insieme alle mie ragazze che sono grandi, che se la sono, devo dire, gustata. Magritte a loro piace molto, forse anche immediato, e devo dire che siamo stati guidati da questo bambinetto, non avrà avuto secondo me 6 anni, che davanti ad ogni quadro raccontava le sue impressioni, ma lo faceva talmente bene che io attraverso il suo racconto riuscivo a vedere cose che da sola non sarei riuscita ad osservare, quindi ho avuto una mini guida, devo dire, potentissima. E il suo papà, con cui poi abbiamo così, ci siamo complimentati per questo bambino, ci raccontava che ad ogni mostra lui proponeva al bambino poi di tornare a casa e di rifare magari dei quadri o di fare una sorta di gara con il pittore, e che stava producendo davvero un book di tutto rispetto. Alberto, questa è un'idea che passo subito anche a te. Ho preso appunti e sono pronta alla mia prossima visita di museo. Allora, torniamo quindi ai nostri ragazzi. Invece, dottor Zuffi, quando i ragazzi crescono, soprattutto se non hanno avuto un'educazione, non hanno confidenza con i musei, trascinarli diventa un po' difficile. Si può fare ancora qualcosa? Sì, però è veramente complicato. Allora, in questo caso bisogna avere molto il senso del tempo e del ritmo. I ragazzi si stancano immediatamente, per loro entrare in un museo vuol dire buttarsi sul primo divano o sulla prima sedia disponibile, mettere la testa fra le gambe e assumere un'aria sconsolata di fatica assoluta. Allora, qui bisogna prima di tutto scegliere il museo. Naturalmente i musei sono molto diversi. In Italia abbiamo una amplissima prevalenza di musei di arte antica, di musei molto tradizionali, molto come dire, di carattere manualistico, ecco. E di solito la visita di questi musei equivale ad una penitenza per i ragazzi. Allora bisogna avere un senso di leggerezza e non di peso. Andare a vedere davvero, come diceva prima Alberto Pellai, scegliere un numero limitato di opere, e nel caso dei ragazzi un po' più grandi vanno aiutati nelle scelte, mentre per i bambini o per i ragazzi più giovani vanno proprio lasciati liberi, i ragazzi più grandi vanno indirizzati. Allora è molto utile studiarsi prima il museo. Significa che gli adolescenti hanno cominciato già a scuola a sfogliare dei libri di storia dell'arte o a doverli studiare già alle medie inferiori e poi al liceo, e quindi sono particolarmente attratti e stimolati dal riconoscere nel museo delle opere che hanno visto riprodotte sui loro libri. Per cui, per esempio, andare a vedere un museo dove siano contenute delle opere che loro hanno dovuto più o meno volentieri studiare, aiuta molto. E allora basta guardare semplicemente nel bookshop, che ormai spesso è presente, di solito all'inizio della visita, guardare le cartoline e vedere se fra le cartoline i ragazzi riconoscono già qualche cosa che hanno visto riprodotto sui libri, e poi vederlo dal vivo è un po' tutta un'altra cosa. In altri termini, i bambini delle elementari sono attratti dal nuovo, i ragazzi delle medie del liceo sono più portati a riconoscere delle cose che hanno già visto. Spesso parlando con gli insegnanti o trovandosi dentro un museo si vede proprio un adulto un po' frustrato che accompagna gruppi o grupponi di studenti. A lei viene da ridere, dottor Zuffi, vero? Ne abbiamo visti tutti e ne abbiamo visti di tutti i colori. Riderà adesso che si porterà dietro me Alberto. No. Il bello ancora da venire. Ma bisogna ridere nei musei. Certo. È questo il fatto, di non prenderli come una penitenza, non prenderli come una specie di dovere pesante da assolvere, cercando di scappare il più in fretta possibile. Insomma. Poi sicuramente ci sono dei musei più accoglienti di altri, proprio belli, in cui uno si sente bene. Vero, dottore? Sì, certo. Ci sono musei e non solo musei, ci sono luoghi d'arte dove si sta bene. Sì. L'Italia da questo punto di vista è veramente un paradiso, cioè bisogna proprio avere il senso del relax che dà la bellezza, della gratitudine per chi l'ha fatto, per chi ce l'ha lasciato e del piacere di starci dentro. Ci sono dei musei meravigliosi, soprattutto quando c'è anche un contenitore piacevole. Vero, sì. Per esempio, faccio un caso noto, spero, a molti, il Museo di San Marco a Firenze. Sì. A Firenze, certo, se uno dice porto i miei figli a Firenze, dice voglio portarli a vedere gli Uffizi. Andate a vedere il Museo di San Marco con le opere del Beato Angelico. È un luogo di incanto assoluto. E naturalmente l'incanto è dato anche dal fatto di poter essere in pochi o addirittura da soli nei musei. È molto faticoso invece quando ci si trova pressati in mezzo a tanti altri visitatori, insomma questo diventa frustrante e faticoso. E questo vale anche per rispondere a quella domanda che poi abbiamo lasciato un po' in sospeso delle gite scolastiche. Le gite scolastiche possono riuscire molto bene quando ci sono degli insegnanti molto motivati e che danno un po' l'esempio, danno il là, danno il tono. Quando gli insegnanti invece sono affaticati, sono preoccupati dal dover fare più la guardia del corpo che non appunto il cicerone, ecco che subito i ragazzi percepiscono un clima, come dire, di fatica, di noia o di difficoltà. E invece dovrebbe esserci un po' questo senso della scoperta, del piacere, dell'avventura. Lo so che non è facile, però. No, dottor Zuffi, poi un altro aspetto vorrei toccare con lei. Spesso noi genitori, e mi viene in mente pensando anche agli insegnanti, alle gite scolastiche, interroghiamo i nostri figli. Allora, l'hai studiato questo? Ti ricordi? L'hai visto? E allora, ecco, diventa visitare il museo per alcuni ragazzi diventa una sorta di interrogazione dove sono così esaminati dai genitori che cercano di capire se qualche nozione che hanno preso sui libri è rimasta appiccicata. Questo, secondo me, non è proprio un modo per rendere amico il museo. Lei che dice? Dico che mannaggia, questa è la morte della storia dell'arte. È vero. Però forse è la morte di tutte le materie scolastiche, sì. Per carità, quello di sentirsi sempre appunto di fronte ad un'interrogazione, ma la storia dell'arte non può, non deve essere così. C'è una frase che credo di poter dire: quando si commenta un'opera d'arte non si sbaglia mai, non bisogna mai dire a uno dei nostri figli no, non è così, hai sbagliato, il commento deve essere libero, poi certo ci possono essere degli aspetti oggettivi che possono essere il soggetto, l'autore, l'epoca, le caratteristiche e così via, ma bisogna distinguere tra i dati o le date e invece l'emozione dell'incontro con l'opera d'arte. Grazie, dottor Zuffi. Grazie a voi. Davvero. Buona giornata. Questa casa non è un albergo. Alberto, allora parliamo di musica e in linea con noi abbiamo Angelo Branduardi. Ciao Angelo. Ciao a tutti, ciao a te e agli ascoltatori. Senti Angelo, lasciacelo dire, siamo stati davvero bravi perché ti abbiamo pescato addirittura in Germania, dove stai conducendo una tournée di grande successo che ti vedrà impegnato per molte date nelle principali città tedesche. Tra l'altro questa settimana, per la terza settimana consecutiva, nella classifica FIMI dei CD più venduti compare il tuo nuovo lavoro, Senza Spina. Bene, sono contento di questo perché è un lavoro abbastanza controcorrente, come d'altronde sono io anche di carattere, cioè piuttosto capriccioso e bizzarro, normalmente faccio il contrario di quello che mi si chiede. E quindi voglio dire, mia figlia quando ha ascoltato i brani inediti ha detto: sembrano le canzoni di un extraterrestre. Intendo dire quello che ha detto Marco Mangiarotti, che io ripeto costantemente, il giornalista del giorno, tanti anni fa, che diede la più bella definizione di me. Disse: la musica di Branduardi è come l'aglio, un gusto molto preciso, assolutamente riconoscibile, che si ama o si detesta. E io quindi sono felice che ci sia qualcuno a cui piace ancora l'aglio. Sì, e noi devo dire che non so Alberto se ama l'aglio questo. Io devo dire però che sono... io amo la musica di Angelo Branduardi, un grande appassionato, e quelli che erano i miei LP di Angelo Branduardi sono diventati dei CD, e proprio perché siamo in un programma dedicato alle famiglie, molto molto ascoltati e amati anche dai miei bambini. Tra l'altro anche le cose più recenti, perché sono rimasti incantati per esempio dalla sua rappresentazione teatrale musicale della vita di San Francesco. Però Angelo, noi siamo mamme e papà, ma anche nonne. C'è una nonna che tra l'altro è una tua fan, che ci ha mandato una lettera e c'è bisogno del tuo aiuto, per cui te la facciamo ascoltare. D'accordo. Sono una nonna melomane. Mi hanno sempre appassionato la musica classica e l'opera, ma non mi sono mai fatta mancare nulla, in quanto più volte ho anche fatto incursioni nella musica jazz, e nella mia discografia con molti LP in vinile non si contano gli album di Lucio Battisti, Angelo Branduardi e Mia Martini. Insomma, penso di avere una grande e giusta passione per tutta la musica bella. Per questo sono rimasta senza parole ad ascoltare la musica che appassiona mio nipote Giorgio di 17 anni. Un indistinto tum-tum da discoteca, senza capo né coda, con cui si riempie le orecchie da mattino a sera. Vorrei portarlo con me a seguire una stagione musicale del nostro teatro locale, sul cui palco si succederanno grandi nomi della musica classica, jazz e leggera. Secondo voi faccio bene a regalargli un abbonamento per la prossima stagione? Avrei qualche successo come riabilitatrice del suo orecchio musicale? O mi conviene fare questo regalo al fratello di 9 anni soltanto, così che l'ascolto della buona musica prevenga il suo appassionarsi a tanto scempio? Credo proprio di avere bisogno di un vostro consiglio. Allora Angelo, qui c'è da dare una consulenza, la nonna vuole delle indicazioni: investire nel nipote più giovane, 9 anni, oppure cercare di recuperare quello che ormai sembra perduto, Giorgio, 17 anni, dei gusti che alla nonna non piacciono proprio? Ma intanto complimenti alla nonna. Vero, che usa... melomane, ma non è una melomane a senso unico. Perché non ama solo il bel canto, l'opera o il melodramma, ma fa ampie incursioni, come dice, nella musica di altri. Io farei un sacrificio al suo posto, un piccolo sacrificio, lo regalerei a tutte e due, nel senso che il bambino più piccolo potrebbe salvarsi dall'incuria musicale in cui si trovano le scuole italiane. Sì. E l'altro potrebbe effettivamente acquisire i metodi, i piccoli mezzi tecnici che servono per ascoltare qualcosa di diverso dal boom boom, perché il fatto di il boom boom nei secoli c'è sempre stato, voglio dire, la musica di consumo né bella né brutta ma inutile c'è stata anche ai tempi di Mozart, c'era chi la seguiva, perché no, ma si può seguire quello ed avere i mezzi tecnici necessari per riempire il messaggio invece di qualcuno che è ad un livello superiore o comunque diverso. Per cui se ce la fa, 2 abbonamenti valgono in questo caso la pena. In uno è quasi certo il risultato, nell'altro si vedrà. Però difficilmente l'abitudine alla buona musica scompare. Cioè, nel senso che quando te ne sei appropriato una volta, poi è come andare in bicicletta, ti sarei capace per tutta la vita di capirla. Ecco, questo è un po' il mio consiglio. Quindi, brava nonna. Angelo, parliamo a te sia come grande musicista che anche come padre di due figlie. Tra l'altro, Maddalena ha cantato anche con te in un brano del tuo precedente album. La sì, lei è una musicista, lei è violoncellista, abita infatti... vive e lavora a Londra, io è uno dei miei vanti, anche l'altra ci mancherebbe, ma è una musicista, diciamo una cellista di alto livello, insomma. Però... suona molto meglio di me, o meglio suona come suonavo io negli anni suoi. D'altra parte, due, tre, quattro ore al giorno. Angelo, d'altra parte i geni qualcosa. Angelo, d'altra parte qualcosa i geni fanno, lasciano il segno, no? No, beh, sì. C'è un fatto di genetica, ma anche un fatto di volontà. Come diceva il mio vecchio maestro di violino, che si chiamava Augusto Silvestri, che non dice nulla a nessuno il nome, ma è importante, i musicisti italiani lo sanno, perché è colui che ha importato il metodo russo di insegnamento di violino. Lui diceva: il talento senza il carattere non serve a niente. E quando uno ha carattere, ha brutto carattere. Quindi ci vuole talento, originalità e brutto carattere. Una ricetta che funziona. Ma a te, Angelo, quando eri bambino, la musica come è entrata nella vita? C'era già nella tua famiglia, così come è stato per le tue figlie, o te la sei andata a cercare? No, me la sono andata a cercare, o meglio, mio padre, che non ha mai suonato nulla, però era come la nonna, un melomane. Per cui io abitavo in un quartiere, il quartiere del Porto di Genova, per così dire, fra virgolette, pittoresco, perché descrive abbastanza bene, voglio dire, Via della Maddalena è l'inizio di via del Campo, dove c'è una famosa canzone Di De André. Esatto, diciamo che era pittoresco. Per cui quell'anno il comune organizzò un anno di scuola materna speciale per questi bambini strani, insomma, che venivano dalla suburbia. E c'era molto pianoforte. Io chiesi a mio padre di suonare il pianoforte, che non ci stava in casa, che era troppo caro. E ricordo benissimo che mi portò da un maestro di violino, mi ricordo benissimo quando aprì l'astuccio e mi disse: questo è un violino. Lui aveva un violino tirolese del 700. Il ricordo che ne ho è olfattivo, cioè aveva un odore meraviglioso di cera, di lume di candela, era una cosa meravigliosa. Io capì che quello era ciò che ci voleva, avevo solo 5 anni, vada bene. È stato un amore a prima vista. Assolutamente, cioè, ve lo dico senza retorica, infatti. No, no, ma ti ho saltato di fatto l'infanzia, e questo male ovviamente per il violino, perché mi sono diplomato giovanissimo a 15 anni e non si poteva giocare a pallone perché ci faceva male le mani, non si poteva fare questo perché ci faceva, insomma, era una vita un po' monastica, però ha dato i suoi frutti, Angelo. L'ho vissuta volentieri. Come, scusa? Ha dato i suoi frutti, direi. Sì, sì, sì, sì, sì, anche mio padre ne era fierissimo, anche se in effetti ho tradito le sue aspettative in un certo qual senso, perché la musica classica l'ho esercitata professionalmente solo per 3-4 anni. Angelo, però, voglio dire, la felice lo stesso. Angelo, se la nostra nonna, non potendo regalare un violino all'adolescente che ascolta Tutum, regala il tuo ultimo CD, che cosa succederà a questo ragazzo? Rimane... Probabilmente questo ragazzo lo ascolterà e passerà direttamente a Marilyn Manson. Allora... No, sto scherzando naturalmente, dipende. Le mie canzoni sono così diverse dallo stream, dalla cosente, che voglio dire, io corro da solo, che arrivo sempre primo, ecco, questo è un po' il ragionamento. Ma l'invito è quello di aiutare i nostri ragazzi a sperimentare. L'abbiamo fatto nella prima parte della trasmissione parlando di arte, e con questo invito anche da parte di Angelo Branduardi, che ringraziamo davvero tanto per essere stato con noi e che speriamo di avere presto in studio qui in carne, ossa e violino, mi piacerebbe. Angelo, soprattutto violino, sì. Va bene. Angelo, un abbraccio, grazie per essere stato con noi. Buona tournée, buon lavoro, buona musica. Grazie, buon vento. Ciao. Questa casa non è un albergo. E siamo tornati insieme ad Alberto Pellai per occuparci dei nostri figli. Figli in vacanza, Alberto, e quindi noi invitiamo, come suggeriscono molte ricerche che sono proprio apparse subito prima di andare in vacanza, suggeriamo ai nostri amici all'ascolto di provare a essere un po' più lenti. Viva la lentezza. Adesso devo parlare anch'io lentamente così. No, comunque, perché poi si addormentano, lenti e cambiano canale o si addormentano. Invece è importante rallentare un po' il passo, specie in vacanza. Serve ai nostri bambini e serve anche a noi. A noi, hai ragione, tra l'altro tu, esistono sempre più evidenze, si sono creati veri e propri gruppi e movimenti di genitori. Dopo lo slow food hanno inventato la slow life, convinti che vedi, cioè la che ti ho mandato in America e hai imparato. Però qualcosa. Alberto, io ricordo sempre una bella lettera che mi ha inviato una mia ascoltatrice dicendo: non vi piace l'italiano, perché utilizzate dei termini inglesi, l'italiano è così ricco, e ha ragione, e quindi traduciamo. Vogliamo dedicare il laboratorio di oggi, genitori figli, proprio all'educazione alla lentezza. Approfittate delle vacanze, siccome durante tutto l'anno corriamo dal mattino alla sera. Pensa che io sto proprio guardando sulla mia agenda quanti giorni mancano all'inizio della scuola e penso di nuovo all'incubo che significherà per me alzarmi alle 7:15 e mettermi in marcia con tutti i bambini per prepararli ad andare a scuola la mattina, essere là prima delle 8, perché altrimenti la dirigente scolastica dà la nota non ai bambini ma ai papà. Senti Alberto, allora proviamo a dare qualche indicazione. Sì, diamo come primo stimolo un breve estratto da un libro uscito da poco, Chi va piano, di Bruno Cortigiani, edito da Rizzoli. Il sottotitolo è Piccole alchimie per grandi sentimenti. Lo ascoltiamo e ci facciamo ispirare. Anche i bambini si rivelano ottimi insegnanti quando concediamo loro la nostra attenzione e ci rendiamo disponibili a imparare. Una cosa che sicuramente possiamo apprendere da loro è un modo diverso di rapportarci col tempo. Ogni tanto, magari nel weekend, la sera e in vacanza, dovremmo condividere il senso del tempo dei nostri figli, dei bambini dei nostri amici. Non hanno mai fretta, non pensano alla meta, si godono l'attimo, vengono rapiti da un nulla. Una farfallina o un sassolino possono catturare la loro attenzione per ore. E in quel lasso di tempo non hanno bisogno di nulla, nessun giocattolo costoso o di moda. Per loro il tempo si ferma, sono felici, sono liberi. Noi non possiamo certo vivere o lavorare con questi ritmi, non sempre, ma ogni tanto potremmo provare. Non è stupido voler imparare dai bambini, è uno scambio alla pari, la nostra esperienza in cambio della loro spensieratezza. È come un esercizio di meditazione zen. Alberto, quindi impariamo dai bambini che ci dicono spesso un attimo, Perché vai così di corsa? Dammi un po' di tempo. Però ecco, noi impariamo dai bambini, ma impariamo anche dalle ricerche. E qui voglio che venga fuori il medico, il ricercatore in igiene e medicina preventiva. Educare alla lentezza aiuta. Fa crescere i nostri bambini più sereni. Perché? Perché ci sono, prima di tutto, proprio il bioritmo dei bambini è diverso da quello di noi adulti. Non dobbiamo dimenticare che la ricerca ha dimostrato che in adolescenza il nostro cervello si modifica in modo così potente e i nostri adolescenti, che hanno sempre sonno alla mattina, in realtà stanno raccontando non la loro pigrizia, ma un fortissimo bisogno che ha il loro cervello. È fisiologicamente dimostrato che il cervello degli adolescenti ha bisogno di una quantità di sonno quasi simile a quella dei bambini al limite alla fine della prima infanzia. Quindi, tanto che alcuni gruppi di scienziati hanno addirittura chiesto al governo americano di cambiare gli orari scolastici, perché far entrare in alcune scuole americane i ragazzi alle 7:30-8 veniva veramente considerato un eccesso esagerato rispetto ai bisogni reali dei ragazzi in questa fase della loro vita. Chissà se questo aiuterà i nostri ragazzi a coricarsi un pochino prima la sera, perché hanno bisogno di sonno, ma spesso in vacanza soprattutto, fanno tardi, non si coricano mai. E poi questa al mattino... era un'altra raccomandazione data dai ricercatori, che effettivamente il bisogno di sonno degli adolescenti deve essere tutelato anche con l'orario di risveglio serale notturno, cioè così come è bene non farli svegliare prima delle 7:30-8, sarebbe bene non mandarli mai a letto dopo la mezzanotte. Vedi? Ecco, io proverò a dirlo alle mie ragazze, voi provate a farlo con i vostri, ma chissà, magari riusciamo. Alberto, io so che tu hai preparato qualche suggerimento pratico, perché diventa questa parte della trasmissione una sorta di laboratorio. Allora, tanti spunti un po' per tutte le età, e inizierei a provare a toglierci l'orologio. Allora, esatto, brava, proprio il primo esercizio, la prima idea che provo a fornirvi è questa: definite insieme ai vostri figli una giornata speciale in cui cercherete di educarvi alla lentezza, e in quella giornata mettete tutti i vostri orologi dentro un cassetto e lasciatevi proprio guidare non dalle lancette dell'orologio che non avete più al polso, ma dal vostro ritmo e dai bisogni del vostro corpo e della vostra voglia di riposare. Per cui un'intera giornata senza orologio in cui dovrete accordarvi non su vale quando... sbirciare quella che è l'ora sul cellulare. Sappiate che è davvero un'esperienza, un'avventura molto interessante, molto divertente da fare con i vostri bambini. Significa darsi ritmi vincolati a quello che sentiamo, a quello che vogliamo, e non a quello che ci dice la lancetta dell'orologio. Pensa anche già solo per mangiare: significherà mangiare quando sentiamo fame e non quando sappiamo essere il momento tipico del pranzo o della cena. E ma se uno ha fame più volte? E qua bisognerà domandarsi perché, magari verificare anche con gli altri in che situazione stanno rispetto a fame, sazietà, appetito. Pensa alle famiglie numerose, magari il papà ha fame alle 11, pensa alla mia. La mamma a mezzogiorno, i bambini sarebbero già pronti per la merenda, insomma, poi raccontateci. Alberto, però si può giocare anche. Certo, allora per giochi vi invito a, se ci riuscite, fare una passeggiata nella natura. E provate a ognuno di voi darvi come obiettivo quello di una specie di caccia al tesoro sensoriale, cioè catturare un elemento il più particolare possibile per ognuno dei vostri cinque sensi, quindi un suono particolare, un sapore speciale, un'immagine, l'immagine più bella che vi rimane di una passeggiata nella natura. Ecco, per ciascuno dei cinque sensi individuate una sensazione specifica, e alla fine della vostra caccia al tesoro mettete a disposizione degli altri i vostri tesori, un modo per affinare i nostri sensi e proprio per reimpossessarci di quelle percezioni sensoriali che spesso la fretta ci porta ad annullare. Tanto che vi invito anche a pensare di fare un pranzo di nuovo che duri il più a lungo possibile, dove e questo è un esercizio che spesso viene usato anche in clinica, soprattutto laddove ci sono disturbi del comportamento alimentare oppure dobbiamo far dimagrire un bambino, fargli durare il pasto il più possibile. Diamo invitandolo però uno spazio temporale, chiaramente nell'arco di tre quarti d'ora o un'ora, potersi godere il più possibile ogni portata che viene messa nel piatto attraverso lo stazionamento il più a lungo possibile dentro al cavo orale, dentro alla bocca, in modo che la lingua percepisca tutti i sapori e tutti i gusti possibili. E questo anche durante l'estate. Pensa al bere, quante volte viene proprio trangugiata una bevanda, spesso fredda, con possibili anche problemi di salute per i bambini. Invitare i bambini a bere lentamente, che tra l'altro è la cosa migliore per far passare la sensazione di sete. Alberto, tu suggerivi nella gita nel bosco di cercare di catturare delle immagini. Sai che adesso arriva dall'Inghilterra e anche dall'America questa proposta di sostituire ad esempio la macchina fotografica e prendere in mano la matita. e quindi di schizzare su un foglio quella è l'immagine che ti ha catturato. E anche se arrivano dei brutti disegni, degli sgorbi, perché molti di noi, io per prima, mi sentirei un po' impacciata, è invece proprio il cervello che si libera, che parla, che riflette. Io penso che aiutare i nostri bambini a girare con un blocchetto, con dei fogli da disegno e delle matite colorate, li aiuti, e aiuti anche noi a fermare un po' il tempo, a concederci di gustare più piacevolmente il tempo delle vacanze. Che dici? Sono perfettamente d'accordo, anche perché spesso questa è una funzione, una competenza che hanno disimparato e rispetto alla quale non sono più abituati. Mettiamoci pure in gioco, hanno disimparato, tu sei capace. Abbiamo disimparato. No, confessiamo, abbiamo disimparato anche noi. E anzi ti prendo al volo, perché c'è un piccolo ma bellissimo libro per bambini molto pratico, si chiama Scarabocchi da viaggio. Dai! Ed è un quaderno tutto fatto di pagine dove ci sono solo piccoli tratti disegnati. Mm-hmm. Tu devi completare la pagina, devi arricchirla con oggetti, cose che hai pescato in natura proprio durante il tuo percorso, per esempio in un bosco. È un libro edito da Salani nella collana Magazzini Salani, un bellissimo accessorio da portare con voi in questa giornata di educazione alla lentezza per bambini tra i 6 e i 9 anni. Senti Alberto, direi, e ce lo siamo dimenticati, ma io lo rivaluterei molto, il pisolino pomeridiano. Quando eravamo piccoli noi c'era una sorta di coprifuoco, mi ricordo, dopo pranzo, quando faceva caldo, i bambini stavano a casa, si leggeva, si scarabocchiava, si stava un po' insieme, magari si giocava con un gioco da tavolo. Adesso i bambini, presi un pochino dal nostro ritmo, del mordi e fuggi, si scaraventano subito fuori e dopo il panino, magari mangiato in spiaggia di corsa, via di nuovo a correre. Ecco, proviamo in questa giornata dedicata alla lentezza a fare un pisolino che non necessariamente sarà una pennichella, ma proprio un pomeriggio, una siesta, ecco, una siesta magari creativa, ma una siesta. A volte in casa nostra noi lo chiamiamo il relax time, vuol dire che per un'ora fondamentalmente in casa non si devono sentire rumori particolari e tutti devono o riposare o trovare qualcosa da fare nel silenzio più assoluto. Senti, per noi è quasi l'ora, no? Per noi è quasi l'ora. Quasi l'ora. Allora ci salutiamo, mangiamo, mastichiamo per bene, ci guadagna anche la digestione e poi ci facciamo una siesta. Che dici? E diciamo ai nostri ascoltatori che se hanno nuove idee per una vita sufficientemente lenta e sufficientemente godibile con i nostri figli, ci scrivano all'indirizzo di essere e benessere @radio24.it. Alberto, andiamo, buona giornata a voi, da Nicoletta Carbone ed Alberto Pellai.